America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, la Apple ha dominato ieri le notizie finanziarie, economiche, strategiche del settore Infocom, e dunque oggi parleremo di questo sviluppo Apple, uno sviluppo sia strategico che finanziario. Ma intanto parliamo di un'altra questione che sta preoccupando il presidente degli Stati Uniti, gli americani, e che è diventato un argomento centrale per la campagna elettorale, la questione energetica. Right now, American oil production is the highest it's been in 8 years. But we've got to do more, because even if we tapped every drop of domestic oil, we've only got 2% of the world's oil reserves. We've got to have an all-out, all-of-the-above strategy. Develops every available source of American energy. Il presidente Obama sta per partire per andare in Oklahoma, Oklahoma City, per poi andare a visitare i depositi petroliferi di Cushing, sempre in Oklahoma, e pronuncerà un importante discorso sull'energia. Ecco, Barack Obama ha sempre cercato di far fronte agli sviluppi politici elettorali dei repubblicani, creando degli eventi che in qualche modo potessero distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dai repubblicani e portarla anche su se stesso. Per esempio, ha fatto una grossa conferenza stampa un paio di martedì fa. La settimana scorsa ha portato il primo ministro britannico David Cameron in Ohio per vedere una partita di pallacanestro. Insomma, ha cercato di darsi da fare. Adesso parlerà di energia mercoledì, subito dopo le elezioni dell'Illinois. Sarà appunto in Oklahoma, prima un passaggio a Oklahoma City, la città che subì il tragico attacco terroristico, e poi il giorno dopo a Cushing, dove c'è un grosso deposito petrolifero. Obama ha qualche problemuccio sul piano energetico, perché il costo della benzina è salito enormemente, di 45 centesimi al gallone dall'inizio di gennaio. I repubblicani lo attaccano soprattutto perché ha votato contro, ha organizzato la bocciatura per finanziare un ampliamento dell'oleodotto di Keystone, e dunque i repubblicani dicono: questo presidente vuole solo parlare di energie alternative, non è concentrato sull'energia tradizionale, l'energia fossile del petrolio, che invece è l'energia che ci aiuta ad andare avanti giorno per giorno. Dunque la situazione è delicata. Obama di nuovo al contrattacco, lo farà questa volta sapendo se Mitt Romney è davvero ancora più forte di quello che è sembrato essere dopo le elezioni a Porto Rico. Apple on Monday announcing plans to issue a dividend of $2.65 a share and buy back up to $10 billion worth of its stock. Ma come vi dicevo, la notizia del giorno riguarda la Apple Computer. La Apple Computer ha fatto notizia, vi dicevo, sul piano strategico, sul piano finanziario. Ha deciso, chiudendo con l'epoca di Steve Jobs, ha deciso la Apple di erogare un dividendo, di acquistare titoli propri. Che cosa è successo? Beh, l'Apple Computer ha 100 miliardi di dollari in contanti, in cassa. Li ha accumulati negli anni delle vacche grasse, non sapeva che fare di questi soldi, continuava a tenerli. Pensate, 100 miliardi di dollari potrebbero risolvere il problema del debito portoghese, seduta stante. La decisione è di Tim Cook, l'amministratore delegato della Apple, che chiude in qualche modo con l'epoca di Steve Jobs. Ma c'è anche una decisione di tipo strategico, perché con questa decisione automaticamente si è rimandata l'ipotesi di un acquisto importante. Si diceva che l'Apple Computer, che fa parte della banda dei quattro, in cui ci sono Amazon.com, Facebook e naturalmente Google, ecco che era lei che avrebbe dovuto dare il là grazie a questa straordinaria montagna di contanti. Avrebbe potuto comprare, pensate, la Disney, che vale 80 miliardi di dollari, avrebbe potuto comprare la TT, che ne vale 158, con un leverage abbastanza contenuto. Nel primo caso avrebbe puntato per un'integrazione sul content, nel secondo caso per rafforzare la sua rete infrastrutturale che punta sulla distribuzione. La distribuzione ormai per la Apple è fondamentale. Avrebbe anche potuto comprare Twitter, entrare nella nuova frontiera, ma la decisione è stata di concentrarsi sul prodotto, una decisione secondo me non secondaria, una decisione importante. Ma di tutto questo parliamo con Daniela Roveda, nostra corrispondente a Los Angeles, che conosce a fondo l'Apple. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Allora, vediamo un attimo, Daniela, di capire perché Steve Jobs aveva questa idiosincrasia di accumulare montagne di cash. Parte perché Steve Jobs non ha mai dimenticato l'esperienza che ha avuto all'Apple, la società che lui ha cofondato ancora con Steve Wozniak, da cui fu estromesso proprio per un colpo contro di lui orchestrato da grandi azionisti, e si era ripromesso di non ritrovarsi nella stessa situazione. situazione, per questo motivo non ha mai voluto distribuire dividendi e in questo modo consentire ai grossi investitori istituzionali di diventare azionisti della sua società. Secondo te è un cambiamento di cultura, e se c'è questo cambiamento di cultura, che effetto avrà sul popolo Apple? Ma io credo che il cambiamento si sia già verificato ed è stato sancito con questa decisione ufficiale di Tim Cook. L'Apple ufficialmente si unisce alla gota delle grosse società mature dell'alta tecnologia e rinnega in un certo senso la filosofia di Steve Jobs, che voleva mantenere un'area di innovazione, di società innovativa diversa, sempre all'avanguardia, decisamente diversa dalle società grosse, mature e immobili rappresentate dalla IBM, dalla Hewlett Packard e in un certo senso anche dalla Microsoft. Ecco, c'è anche una rinuncia all'avventura, perché sappiamo che avrebbe potuto acquistare con questo contante insomma delle aziende che sul piano strategico si sarebbero integrate, eppure in questa fase, certo restano i contanti, in questa fase si è deciso invece di puntare sull'interno, sul prodotto. E perché secondo te la Apple ha ben chiara in mente l'esperienza negativa della Sony, che a un certo punto dimenticò il suo prodotto e perse il treno? E magari il fiato sulle spalle di una Samsung che continua a innovare e tiene il passo un po' con Apple? Ma indubbiamente sì, è certo vero che la pressione sulla Apple è molto forte per mantenere il passo dell'innovazione e il vantaggio sulla concorrenza. Ma è anche vero che anche dopo la distribuzione di questo dividendo all'Apple rimangono circa 50 miliardi di dollari di contante e questo non esclude la possibilità di effettuare grosse acquisizioni già quest'anno o nei prossimi due anni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Esce oggi il primo album di James Casey, il cantante 29enne originario del Texas che ha raggiunto il successo attraverso il talent show American Idol, è arrivato terzo nella nuova edizione del reality in anteprima di James Casey scoperto da American Idol, Undone. My heart's been broken, my heart's been bruised, it's falling hard a time or two, and up till now I didn't know who could set me up. Searched around in love to know about who. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.